24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani, cioè. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Pare che non si parlino più i protagonisti della nostra sigla, pare che non si parlino più. Addirittura, secondo Repubblica, Bersani è arrivato a dire: ma tu, caro Renzi, vuoi sabotarmi? Cari italiani, eccoci qua, buongiorno, è la nuova puntata di 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9, se volete mandarci un messaggio 349-238-6666 e che dire, possiamo aprire il nostro barlamento? Ebbene sì, ecco la Claire, ecco la bella Nicole. Il caffè volentieri a tutti quanti. Che offre gente accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Sì, li paghiamo noi, vabbè, insomma, al Parlamento, al Parlamento. Allora, chi c'è oggi al Parlamento? Voglio trovare con molto piacere Luisella Costamagna, buongiorno, ben svegliata, eccoci qua. Buongiorno. Oggi abbiamo anche, ti presento il nostro mitico Alberto Forchielli. Dov'è Forchielli? Buongiorno. Sono a Hong Kong, buongiorno. Hong Kong, mamma mia, cioè, si sposta tra Cina, Hong Kong, queste. Presidente dell'Osservatorio Asia, insomma. Allora, uno attende la marcia su Roma dei grillini e arriva la marcia su Milano, sul Tribunale. Attende la marcia su Roma e forse ci accontenteremo dell'Aventino, sempre del PDL che ha minacciato l'Aventino. Che è? Ah, l'inno. Dove la vittoria? Deputati del Popolo della Libertà ieri hanno occupato il tribunale per protestare contro la Procura di Milano che non voleva dare il legittimo impedimento, poi l'ha dato a Berlusconi e cantano l'inno nazionale. Allora, adesso qui, ecco, abbiamo Forchielli. È arrivata questa notizia a Hong Kong? No, ormai Berlusconi non fa più notizia. No, addirittura. No, niente. Zero. Nessuno che parla di questa cosa, ma com'è possibile? Qua è la notizia. No, è completamente passato. Passato. Sì, finito il bunga bunga. Non è che le condanne o tutte le vicende giudiziarie di Berlusconi interessino più nessuno. Ma infatti questo è il problema, infatti il mio punto di vista è questo, ma adesso Luisella, interessano davvero queste a me non interessa poi più di tanto, cioè al paese, a te interessa? No, allora stiamo parlando di ancora un ex presidente del Consiglio, sì, che comunque il capo del Popolo della Libertà, quindi del terzo partito italiano. Mi interessa sapere se insomma le accuse che gli vengono fatte, se le condanne che ha ricevuto e i processi che è in corso siano reali, se abbia comprato dei senatori pagando, sì, in nero 2 milioni di euro. Certo che mi interessa. Questa a Napoli, Napoli è l'inchiesta a di Napoli, però sì, quattro processi in corso e mi interessa non solo quindi sapere insomma se queste accuse sono vere o non vere, ma mi interessa anche che ci sia un rispetto degno di questo nome, della Costituzione, della democrazia, dell'indipendenza dei poteri dello Stato. E che ne pensi di questa marcia fatta sul Tribunale da parte di 100 deputati più o meno del Popolo della Libertà? Guarda, come prima impressione mi ha dato la stessa impressione del voto in Parlamento su Rubin, nipote di Mubarak, che ricordiamo purtroppo tutti, quindi insomma una pessima impressione, dopodiché appunto una mancanza di rispetto con Luisella Costamagna e Forchielli mi toccherà difendere Berlusconi, sennò poi ci massacrano, ma non ci è dicono. Allora, diciamo insomma, due cose importanti. A parte che ancora una volta si dimostra che la prima preoccupazione sono i processi. Non interesseranno a te, non interessano agli italiani, ma interessano molto a Berlusconi. Però ci mancherebbe, è imputato, ci mancherebbe che non gli interessi. Allora si facesse giudicare, perché l'altra variabile per cui ce la si prende con i giudici, con le visite fiscali, a parte che ho visto un'intervista fatta da Repubblica TV a malati di Juventus che dicono noi siamo costretti a tornare a lavorare o andare a scuola. Berlusconi si è sottratto sistematicamente ai processi che lo riguardano. Ma questo sì, però secondo me, ma è il mio parere personale, ma ripeto, vi assicuro, cari ascoltatori, non c'è nulla di politica, è proprio di mia indole. Ecco, leggere le interviste agli affetti da uveite che dicono anche oggi sul Fatto Quotidiano io devo fare una vita normale, ma chi se ne, cioè non chi se ne frega, nel senso dà veramente, per cui siamo tutti uguali di fronte alla legge, sì. A te sembra normale che ci sono state, il processo Rubio è iniziato ad aprile del 2011, sono passati 2 anni, 50 udienze, Berlusconi si è presentato 2 volte. Ma ho capito, peraltro ieri hanno fatto poi la visita fiscale e gli hanno dato... è tenuto a presentarsi. Infatti, però, sì certo, però ieri hanno fatto poi la visita fiscale e hanno detto il legittimo impedimento, è malato 7 giorni, gli hanno dato una prognosi. No, cioè, infatti bisogna rispettare i magistrati, bisogna rispettare le visite fiscali, e quando si stabilisce che c'è un legittimo impedimento... Va bene, quando stabilisce che non c'è legittimo impedimento si deve presentare. Forchielli, da Hong Kong, quanto è lontana questa vicenda? Solo chilometricamente oppure proprio, dice... Sei un poveraccio, capito? È una roba da gazzettino, ma come da gazzettino? Così tutto ridotto a 80 anni a rifugiarsi in una camera del San Raffaele. Ma no, ma come rifugiarsi? È una roba da Forchielli, ma tutti i giornali d'Italia aprono su questo: il Corriere, Giustizia, la marcia del PDL, ma Repubblica. Bingo bongo. Prova a leggere il New York Times, non c'è neanche un accenno. Infatti io lì volevo arrivare, cioè voglio dire... No, ma questo è bingo bongo, capito? Lui poveraccio, ormai siamo braccati in una camera della San Raffaele, visitato dai medici, è una roba... Il carcere San Raffaele. Però siccome è stata citata la questione di Mubarak, ieri vedevo dei giornalisti aggressivissimi, no? A un certo punto sentite con la Micaela Biancofiore, onorevole, un giornalista. Disobbedite a Berlusconi per una volta. Per una volta è il caso, sì, perché per l'amore che abbiamo nei suoi confronti. Troppo amore. Per l'amore sincero, perché forse neanche lui ha capito la gravità della situazione. Onorevole, però forse non era il caso di disobbedirli quando chiese in Parlamento di votare che Rubio era la nipote di Mubarak. Lei lo sa se lo era o non lo era? Penso che ormai sia comprovato. Lei pensa ancora che era la nipote di Mubarak, Rubi? Non le rispondo su queste stupidaggini. Cioè, c'è ancora il dubbio, Forchielli, c'è ancora il dubbio se fosse o meno la nipote di Mubarak, questo Michele Biancofiore dice, lei lo sa se lo era oppure non lo era, non si sa. Sì, ma se anche lo fosse stata, insomma. Diciamo, chi se ne frega. Allora sentite dai, anche parliamo di altro, dai, cambia argomento. Faccio sentire questa. Parlare di bingo bongo. Vabbè, allora niente, il bingo bongo a Hong Kong non arriva. Devo far sentire questa, una sostenitrice di Berlusconi, poi parliamo d'altro, dai. Se queste sono delle mignotte che a 13 anni vogliono andare a letto con uno e con l'altro, lo possono fare, però se l'ha fatta al limite con Berlusconi, lì succede il finimondo. Perché? Perché comunque cercano sempre, diciamo, il piccolo appiglio per poterlo rovinare, e questo è palese. Quale sarebbe, insomma, il piccolo appiglio? Il fatto che è andato con una minorenne, a parte che è tutto da dimostrare. E poi, come ripeto, Pasolini pure andava a letto con le minorenni, però se erano di sinistra mica si attacca, solo a destra. Si l'hanno fatto fuori, insomma. Hanno fatto bene. Signora, perché comunque era uno invertito. Hanno fatto bene a fare fuori Pasolini, era pure un invertito. Vabbè, fermiamoci. Sai chi era un gran trombatore? Mao Zedong. Oh, ma sì, Mao Zedong, sì, ma come? Il rigore. Vedi come sono bravi i cinesi. Però tutto in silenzio. Tutti però con grande stile. Cioè, mentre faceva la lunga marcia Mao Zedong, no? No, in tarda età. Ah, ecco. Però è una roba così, gestita con gentilezza. Gestita la cinese. Hai visto, Luisella, questi cinesi, no? Che Forchier li conosce bene. Tutto in silenzio. No, ma uno ne ride, ma non c'è niente da ridere. È veramente una situazione allucinante. No, ma dai, ma siamo ancora qui a piangere. Ma non si sa più di cosa piangere. Tra Grillo da una parte, Berlusconi da quell'altra. Cioè, Forchielli ride per non... capisci, no? Luisella, Forchielli ride per non piangere. Il debito 1.2, il debito 127. Quindi si salva lì, invece noi siamo qua in mezzo alla melma. Sì, lui da Hong Kong può ridere. Vabbè, allora vi faccio sentire... Sentite Fiorello, vabbè, Fiorello ci introduce un po' l'argomento della politica. Ti avevo detto, un po' più interessante, di non portare nessuno insieme a te, e invece poi Bersani e Monti e Berlusconi che rompono i maroni per stare lì con te. La passeggiata non si deve far, se no a qualcuno possiamo assomigliar. Io Casaleggio e tu passeggiando in Parlamento. Vabbè, questo è sempre lo straordinario Fiorello. Forchielli, allora, questi grillini piacciono, le piacciono o no? Cosa sono? Ormai mi sembra, quella è Scientology, è una setta, è diventata quella lì. Ormai sono una setta, addirittura. Quello non è un movimento, quella è una setta. Perché? Con un cretino che dà degli ordini su e giù, e vivono nel terrore di non essere rieletti. Ma io cosa ho fatto per meritare questo? Quello è Scientology, quello lì è il bramino, sono di quelli lì che stanno là in India con tutti i seguaci. Ma Luisella, salvami tu. Ma no, poi... guarda, vai su YouTube. Sono portata al di là dei termini, ma no, non è assolutamente una... Capito, ma già alle 6.45 mi daranno contro tutti quelli di Berlusconi, dicono che l'avrò attaccato. E adesso Forchielli mi dice che quello è un cretino di una setta. Ma io che devo fare? No, insomma, capisco che la distanza annebbi la percezione, però voglio dire, ma è un movimento, hanno preso 25%, lo analizzerei per quello che è. Ma Forchielli, chi c'hai adesso con Grillo? Perché una setta, un cretino? Poi... Ma perché non si può parlare, non è ammesso il dissenso, vieni subito cacciato via, capito? Mica la Cina democratica, non è come mica sempre. Un movimento politico quello lì, capito? Mica in Cina. La pubblicità sul blog, capito? Poi sei a posto. Mica in Cina, Forchielli, dove si può andare lì in piazza e dire, fare un bello speaker's corner e dire, voi corrotti. No, beh, quelle cose lì si dicono in Cina, Si dicono. Ho fatto un paio di interviste televisive, dipende. Basta che lo fai sempre con garbo, come Mao Zedong, che trombava, con garbo, con stile. Io te l'ho già detto, per me Grillini, quella è la filiale italiana di Scientology. 24 mattino. Ho appreso che Berlusconi ha dei problemi visivi. Mi stavo chiedendo se farà la domanda per una pensione di invalidità con relativo accompagnamento. Che bello! Questa volta abbiamo i maestri di pensiero, tutta la famiglia Fo. Adesso vediamo Franca Rame che cosa ci dice. Buongiorno Mila, sono una signora che ha una piccola attività commerciale. Ho chiesto un prestito alla Monte dei Paschi di Siena e i signori non mi hanno potuto fare un mutuo perché non potevano, però mi hanno fatto un prestito personale con un 9,92% al mese, il che vuol dire che io pago quasi il 110% l'anno. Questi sono dei delinquenti. Sostenete l'agricoltura. È l'unica speranza per riemergere da questo pantano. Caro Milan, chi ti critica non capisce un cacchio. Bisogna che tu prima o poi chiami Fassina alla tua radio e che gli spieghi chi ha rotto i coglioni. noi lui, Bersani, La Finocchiaro, Rosi Bindi, non li vogliamo più, non vi vogliamo più, o se no i voti vanno a Grillo, io Grillo non lo voglio votare, perché è peggio di Berlusconi, voglio Renzi, la gente vuole Renzi, è un fatto ormai assodato. E insomma, questa è la nostra segreteria telefonica, ma Fassina l'abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, quindi vabbè. Comunque siamo con Luisella Costamagna e siamo con Alberto Forchielli, che ci dice che Grillo è Scientology, c'è cioè Luisella. Però effettivamente hanno un po' questa modalità, cioè prova a invitare uno in onda del Movimento 5 Stelle, se ti ci riesci. Io sono convinta che facciano bene, guarda. Fanno un bene. Po'. Non è, allora, sono d'accordo, sai che sono d'accordo con te su questo, cioè sulla democrazia interna, voglio dire, guardiamoci intorno, guardiamo appunto il Popolo della Libertà, per fare un esempio su tutte, vediamo quanta democrazia interna c'è nei grandi partiti, al di là della discutibilità delle vicende Favi e Salsi. Dopodiché io penso che Grillo sia stato un salutarissimo scossone sia ai partiti tradizionali, alla politica tradizionale, che ai media, ai giornalisti, che per anni molto spesso, e molti ma non tutti ovviamente, sono stati specchio del sistema politico, pappa e ciccia con i politici, e se quindi loro sono in grado di scardinare anche questo sistema dei media, fanno benissimo. I risultati peraltro si vedono già ottimi. No, ma tra l'altro io quello che dico è Forchielli, sai che io lo chiamo Kim Jong-Grill, no? Kim Jong-Grill, Kim Jong-Grill. Allora, infatti, cioè o fa così, cioè o non li tiene, o fa così, c'è cioè un movimento che è nato in maniera repentina, con questo grande successo, o li tiene insomma un po' col pugno di ferro, cioè li comanda un po', fate questo, fate quest'altro, non avete esperienza, o se no gli fioriscono gli sciripoti dietro l'angolo, no? Forchielli, bisogna... Sì, ma non ha un disegno lucido, capito? Cioè, Lenin fece la rivoluzione, sapeva dove voleva arrivare, Mao idem, George Washington idem. Si fa la rivoluzione, ma non Sa, già il paragone non è male, mettere nella stessa quindi frase Grillo. Trae dei voti che potrebbero essere costruttivi e ci porta al caos. Ci porta al caos. Non ha un disegno coerente. Aggiungiamo anche una delle motivazioni per cui esercitare questo potere. Non andare in televisione, lo hanno detto, ha detto anche Grillo, è inesperienza. Noi abbiamo una classe politica che è molto più brava in televisione che non in Parlamento. Nel loro caso, insomma, fare la televisione c'è un tasso di inesperienza anche nei confronti dei media che è meglio tutelare. Sì, sì. Vabbè, benissimo. Qua intanto, vedi Forchielli, subito mi scrivono i messaggi. Lei è lei, cioè io, se è prezzolato Milan per sparlare del Movimento 5 Stelle. Vedi, così. Adesso sono già un prezzolato. Forchielli, lei è prezzolato per parlare del Movimento 5 Stelle? No, io parlo volentieri anche gratis, cioè se mi vogliono pagare le prendo, però ho proprio una gran soddisfazione a parlarne. A gratis proprio? Li ho guardati un po' e adesso mi sono reso conto che sono una manica di... è meglio andare subito rapidamente alle elezioni... No, adesso in una perché, situazione di spread altissima, disastro totale. Ma ancora le elezioni? Così. Ma le elezioni? Sì, ma che risolviamo con questa legge elettorale? Riandiamo alle elezioni, la spread andrà alle stelle, disastro assoluto e un po' di voti rientrano. Tanto senta, Berlusconi non farà mai meglio di quello che ha fatto. Il PD non può fare peggio di quello che ha fatto. Per cui... tanto male non può andare. Non può andare. L'unica incognita è Monti. Monti può scivolare ulteriormente. Però la prossima volta deve deve votare la prossima volta, Forchielli, se si va alle elezioni. Deve votare la prossima volta che si va a... Sì, la prossima volta voto Renzi. Ma se sei candidato, e chi lo sa? Sì, basta. No, Renzi, basta, ha deciso Luisella, ha deciso. Forchielli all'inizio era per Monti, poi ha detto che anche Monti stava rotolando giù per le scale della cantina, quando si è messo a fare la rincorsa sui tagli delle tasse. Monti ha fatto l'enorme sbaglio di aver fatto credere agli italiani che i problemi erano risolti. No, però io questa domanda, no, però attenzione, ci siamo trovati tolta la pressione, sì, ci siamo trovati in questo Forchielli, posto. Io ho questa domanda da farle, mancano 30 secondi. Il conclave in Cina, come lo vivete lì? Cioè, a Hong Kong adesso, ma insomma da quelle parti. In Cina cosa dicono del Papa? Ah no, ignorato completamente. Eccolo lì, ignorato. Non è la democrazia. Non è sovrano. Non c'è rapporto diplomatico con la Chiesa, per cui quindi ignorato. Qua fanno Hong il Papa. Kong, no, sui giornali di Hong Kong no, no, perché certo, l'arcivescovo conta, il cardinale conta, certo. Ma in Cina non esiste. In Cina cioè, c'è il conclave, ma chi se ne frega? Cioè, non esiste, non, non esiste, esiste, non esiste. Non esiste. Cioè, il Vaticano non esiste. Hai capito, Luisella, come, una, come zero notizie di Berlusconi e zero notizie del Papa nuovo in Cina. Lo so, ma infatti... I capi veri non contano più, adesso si parla solo di Grillo e delle responsabilità che avrebbe. Giusto. No, io non lo so, a me sembra che, adesso facendo un discorso più serio, che quello che sta proponendo in termini anche di taglio ai costi della politica sia poi alla fine condiviso da tutti, anche da chi lo critica. E ieri registro delle disponibilità interessanti, ancora una volta è Grillo a dettare l'agenda, buttare la palla nel campo di Bersani e ancora una volta Bersani a inseguire. Sì, non sa, non sa che fare. 48 milioni di euro di rimborsi elettorali per il Partito Democratico secondo la letterina che gli ha preparato Grillo, è disposto a votare l'ineleggibilità di Berlusconi. Mi sembra che siano punti importanti su cui il PD dovrebbe riflettere. E vediamo se rifletterà e come rifletterà. Intanto vi ringrazio, Luisella Costamagna, Alberto Forchielli, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. Eccoci qua, è saltata la base, mi dice. Quando il tecnico ti guarda e dice è saltato il sistema, mi è saltata la base, vuol dire che bisogna accendere il microfono e entrare. Eccoci cari italiani, ecco, è tornata la base. Vedete, sono le 7:21 minuti, ben ritrovati, basta chiamare base e la base parte. 7:21 minuti. Siamo qui pronti a leggere i giornali, ben ritrovati cari ascoltatori, se vi siete svegliati solamente ora, razza di debosciati. Allora vi ricordo che alle 8:15 avremo ospite il senatore e avvocato di Silvio Berlusconi, Piero Longo, per questa marcia che c'è stata ieri, occupazione del tribunale da parte di deputati del Popolo della Libertà. Poi parleremo della situazione politica sempre di incertezza, ci sarà con noi il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e un deputato Dario Nardella del Partito, del Partito Democratico, questo è le 8:30, Partito Democratico che ha visto l'ennesima appello di Beppe Grillo a dire tagliate il finanziamento ai partiti e magari discutiamo, fate qui, firma qui, com'è l'appello a Bersani, firma qui. Allora, questo più avanti, ora appunto i giornali che trovate in edicola. In questo martedì 12 marzo, niente, neanche lo stacchetto, cioè tutto saltato, manco lo stacchetto, un disastro, questi sistemi non ci aiutano. Vabbè, comunque martedì 12 marzo, i titoli, il Sole 24 Ore apre sull'allarme delle piccole e medie imprese, siamo senza credito e liquidità, col presidente di Confindustria Squinzi che dice lo Stato paghi subito 48 miliardi di debiti alle aziende. E poi praticamente tutti i giornali aprono con questa vicenda della marcia del Popolo della Libertà. Corriere della Sera, giustizia, la marcia del PDL, ma i medici questa volta danno ragione a Berlusconi. Repubblica, il PDL all'assalto del tribunale. La Stampa, Berlusconi subito a giudizio, il PDL invade il tribunale. Il Fatto Quotidiano, il PDL occupa il tribunale, tacciono PD e Quirinale. Libero, giustizia da ricovero, il Messaggero, marcia del PDL sul tribunale. Poi vedete, il giornale la vede così, marcia delle libertà, e il Manifesto, la marcia dei caimani. L'Unità, la marcia eversiva del Popolo della Libertà. Mentre Avvenire sceglie, come è presumibile, insomma un altro fatto storico, vale a dire oggi l'apertura del conclave, il tempo della scelta, cardinale oggi in conclave, attesa per la prima fumata per la scelta del nuovo pontefice. Allora, da cosa voglio partire però? Io l'avevo twittato qualche tempo fa sul mio profilo Twitter, Alino Milan, che vi invito a seguire se vi fa piacere. Cari Marò, questa volta che vi hanno dato una seconda opportunità con una seconda licenza, non sprecatela almeno questa volta, rimanete in Italia. Così è successo, così la vicenda si è da una parte ricomposta e dall'altra parte complicata per i rapporti con l'India. I Marò, italiani accusati in India di avere sparato e avere ucciso due pescatori indiani, rimangono in Italia. Così ha annunciato la Farnesina, una scelta unilaterale. Ovviamente il giornale con Fausto Biloslavo riesce anche a raggiungere sul telefonino uno dei due, vale a dire Salvatore Girone. I Marò restano in Italia. Salvatore Girone: ero in macchina quando mi è arrivata la notizia, racconta Fausto Biloslavo a pagina 14. Un secondo dopo il telefonino ha cominciato a squillare come se fosse impazzito. Sono arrivati 1000 messaggi di calore, d'affetto. Finalmente devo confessare che non ho mai avuto dubbi sull'impegno dello Stato e voglio cogliere l'occasione per ringraziare il Presidente della Repubblica, le istituzioni, il popolo italiano che ci ha sostenuti. Alla fine, scrive Biloslavo, il governo beffato alla fine beffa l'India. Racconta in un retroscena, tra l'altro a pagina 3 del Corriere della Sera, Maurizio Caprara, che la scelta da parte del Ministero degli Esteri di tenere in Italia i due Marò è una scelta che è maturata nel corso dei mesi. Lo stop 3 mesi fa, poi il via libera, racconta il Corriere che in segreto la scelta di non far ripartire per lo Stato indiano del Kerala Massimiliano Latorre e Salvatore Girone era sotto esame a Roma da mesi, almeno da quando i Marò ricevettero anche il primo permesso di tornare a casa il 20 dicembre scorso. A quel che risulta il Corriere, scrive Caprara, era il ministro degli esteri Giulio Terzi a propendere per non farli rientrare a Kochi già a gennaio. Ma invece il presidente del Consiglio Monti, il capo dello Stato Napolitano, il ministro della giustizia Severino ebbero riserve perché ne andava del prestigio dell'Italia. Ora certo questa decisione ha messo un po' in imbarazzo per la parola disattesa verso il Kerala, ma si fa notare sul Corriere della Sera che gli italiani hanno trovato, diciamo, un espediente giuridico sul diritto internazionale del mare, perché al contrario per esempio gli Stati Uniti forse si sarebbero ripresi i propri militari con un'incursione. Invece la Repubblica Italiana, priva di altrettanto peso a livello mondiale, ha aspettato di far coincidere il mancato ritorno in India dei due fucilieri con la possibilità di aprire una controversia internazionale su chi li debba giudicare. Insomma, come andrà a finire, che succede di questa vicenda? Intanto rimangono in Italia, non so se voi siate d'accordo oppure no. Anche su Repubblica c'è un'intervista di Giuliano Foschini che li raggiunge, raggiunge per la verità Salvatore Girone. Se lo aspettava? No, lo abbiamo appreso dalle agenzie di stampa, dai 1000 messaggi degli amici, non so davvero che dire, non posso che essere contento perché rimango a casa, dice anche noi non siamo degli assassini. Come ricomporre la vicenda? Beh, ormai parla il professor Andrea De Guttri, intervistato dal Quotidiano Nazionale, ormai è una situazione giudiziaria con una soluzione difficile perché le parti sono troppo esasperate, la vicenda ha assunto toni prettamente politici e gli scenari che si prospettano ora sono quelli di risolvere la controversia internazionale con mezzi pacifici senza fare ricorso alla forza. Il dato di fatto è questo. Io avevo detto, è un po' anche l'arte della, della diplomazia, a brigante, brigante e mezzo, e quindi i Marò rimangono in Italia. Voglio regalarvi questa notizia che è tra lo sport e invece le vicende di cronaca. Sapete che a Roma da qualche tempo si aggira uno sceicco o presunto tale, Adnan Adel Aref Kaddoumi, uomo d'affari giordano che vuole acquistare la Roma. Ebbene, cari tifosi della Roma, leggete con attenzione quello che oggi scrive il Messaggero in prima pagina dal titolo «Sceicco da 1000 euro». Non è un errore, da 1000 euro. Il presunto sceicco Kaddoumi praticamente è in rosso con le banche di 4000 euro. E di recente gli è stata negata un'apertura di credito di 1000 euro. Non è una barzelletta. E questo sarebbe lo sceicco che vuole comprare la Roma. Rosario Di Mito racconta, pagina 29 del Messaggero, il presunto sceicco della Roma in mora con le banche di 4.000 euro e non solo. Ai primi di gennaio ha chiesto alla filiale di Roma di un grosso istituto del Nord un'apertura di credito di 1.000 euro, ma non gli è stata concessa. Tutto questo evidentemente perché dalle carte riservate in possesso di alcuni banchieri ai quali Adnan Adel Aref Kaddoumi si è rivolto, risulta che le sue proprietà sono sulla carta o quasi. Eppure, secondo gli americani di James Pallotta, dalla due diligence effettuata emergono disponibilità finanziarie idonee a effettuare questo tipo di operazioni, cioè entrare nel capitale della Roma versando circa 50 milioni di euro. Il termine, tra l'altro, è dopodomani, giovedì 14 marzo. E allora c'è questo mistero. Ma allora, ha 50 milioni di euro questo sceicco, ha disponibilità finanziarie di questo tipo, oppure non ha manco la possibilità di accendere un mutuo per un prestito per 1.000 euro in una banca? Ci sono anche i misteri sul nome, insomma tutta una spy story che si intreccia con una delle squadre più prestigiose d'Italia, con la Roma, col futuro della Roma. E che succederà di questo sceicco? Ha questi soldi, 50 milioni entro dopodomani, oppure non ha manco 1.000 euro? Ma chi lo sa? Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua, alle 7:36 minuti, sono tornate anche tutte le basi e tutte le sigle, il nostro alpino Peter Bescapè più rilassato. Allora, la politica, certamente la notizia con cui aprono tutti i giornali è questa marcia di protesta che non ha assolutamente precedenti, fatta da un 100 abbondanti parlamentari del Popolo della Libertà per solidarietà nei confronti di Silvio Berlusconi. La questione è per il processo Ruby, era stato chiesto il legittimo impedimento anche dagli avvocati di Berlusconi, Ghedini e Longo, uno dei quali sarà nostro ospite, Longo, alle 8:15. E poi questa decisione appunto di marciare sul tribunale, di occupare il tribunale da parte dei deputati. Poi tra l'altro nel pomeriggio, dopo la visita fiscale seconda in pochi giorni, è arrivato il legittimo impedimento certificato anche per Silvio Berlusconi per l'udienza. Giustizia, marcia del PDL sul tribunale, così titola Il Sole 24 Ore, pagina 8. Nuova visita fiscale per Berlusconi, dai giudici alla fine sì al legittimo impedimento. Guardate, vedete tutta la cronaca su tutti i giornali, anche il Corriere della Sera racconta la vicenda a pagina 12, il blitz del Popolo della Libertà al Tribunale di Milano, i medici danno ragione a Berlusconi, scrivono Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. All'indomani della raccomandazione di Silvio Berlusconi di aver rispetto delle istituzioni, l'ex ministra della giustizia Alfano comizia sulla gradinata del Tribunale di Milano alla testa di 100 parlamentari PDL sotto la gigantografia di Falcone e Borsellino contro gli scandali della nuova visita fiscale a Berlusconi, della richiesta dei PM di Napoli di giudizio immediato per corruzione del senatore De Gregorio e del non riconoscimento della riunione dei gruppi parlamentari come legittimo impedimento degli avvocati Ghedini e Longo al processo Ruby. E scrive il Corriere, in passato nel caso di Nugoli, di parenti processati nelle direttissime o di ragazzi dei centri sociali ad Armanforte agli amici imputati o di familiari nelle sentenze di 'Ndrangheta, la bolgia non è stata tollerata, ma il blitz tribunalizio di 100 parlamentari al processo del loro leader, scena senza precedenti nella storia italiana, sorprende i carabinieri addetti alle transenne per mantenere un briciolo d'ordine e le loro indicazioni logistiche. Gli hanno detto: dovreste fare il giro dall'altra parte, vengono tutte bypassate questi consigli come i metal detector, ignorate dalla baraonda di deputati e senatori che trovano le porte dell'aula chiuse a chiave. Alfano prima non se ne avvede, poi si ferma lì davanti alla porta per esprimere a Ghedini la ragione della solidarietà dei 100 accalcatisi. Abbiamo dovuto interrompere la riunione dei nostri gruppi per consentire a te di potervi partecipare. E visto che i giudici non fanno andare i parlamentari dagli avvocati, gli avvocati ricevono la visita dei parlamentari. E la risposta di Ghedini: grazie, grazie. Vabbè, questa vicenda è raccontata come? Intanto c'è il retroscena di Paola Di Caro sul Corriere della Sera, sarebbe stato lo stesso Berlusconi in persona, in qualche modo dal San Raffaele, dall'ospedale dove è ricoverato, a dire due giorni fa basta con i moderatismi. Trovate il retroscena pagina 15. Non ne posso più di queste cautele, vogliono arrestarmi, farmi fuori, dovete reagire, vi voglio tutti tutti a Palazzo di Giustizia. Vogliono crocifiggermi. Questo è il virgolettato attribuito a Berlusconi. E come raccontato dai giornali, beh, ovviamente qui ognuno la pone a modo suo. Su Repubblica è molto duro Ezio Mauro, il direttore, il titolo dell'editoriale è «I Caimani». Scrive Mauro, un presunto uomo di Stato che ha avuto l'onore di guidare per 3 volte il governo di un paese democratico, ieri ha organizzato una gazzarra davanti al Tribunale di Milano, schierando deputati e senatori PDL contro la magistratura che lo indaga per reati comuni e portandoli addirittura a rumoreggiare di fronte all'aula del processo Ruby. La verità è che non c'è più politica in questo salto nel cerchio di fuoco che tutto consuma, compresi i piani di qualche statista per arrivare a un governo PD-PDL. Ci aspettavamo che Napolitano non ricevesse al colle chi, dopo aver chiesto udienza al Quirinale, trascina il Parlamento in piazza. Ma dal capo dello Stato, Alfano e Berlusconi, impareranno che il Quirinale non è un quarto grado di giudizio, così come dovranno capire che in democrazia non si porta il potere legislativo in strada contro il potere giudiziario. E invece sul giornale prendo, diciamo, 2 commenti volutamente opposti. Sotto il titolo Marcia delle Libertà, questo in prima pagina, c'è il commento di Alessandro Sallusti, il direttore, che paragona questa marcia alla marcia dei 40.000 dirigenti della Fiat del 1980. Era dal 1980, scrive Sallusti, che dei moderati non scendevano pacificamente in piazza. Era ottobre e 40.000 dirigenti Fiat sfilarono per le vie di Torino contro i sindacati che avevano paralizzato la fabbrica con scioperi, picchetti, violenze quotidiane. Quel Far West che era la Fiat di 30 anni fa e che originò la marcia silenziosa dei giusti è molto simile al Far West di oggi delle procure. Abusi, arbitri, violenze. La legge sterzata a uso e consumo personale da parte di una categoria, quella di PM politicizzati, che per ben 24 volte negli ultimi 18 anni hanno dato l'assalto a Berlusconi senza riuscire a ottenere una sola condanna definitiva, tanto erano infondate le accuse. E tra l'altro scrive nel suo editoriale in conclusione Sallusti, la battaglia rischia di spostarsi in Parlamento con forme e metodi drastici, perché come dimostrano ieri senatori e deputati del PDL non sono più disposti finalmente a sopportare oltre. Nel caso avranno tutto il nostro appoggio. E sì, perché adesso la battaglia rischia di diventare da meramente di piazza a politica. Troverete la parola Aventino, la minaccia dell'Aventino da parte del Popolo della Libertà in questi giorni. Addirittura l'idea venerdì, tra le misure più eclatanti, venerdì giorno di insediamento delle Camere, venerdì che non si partecipa all'insediamento delle Camere. In un retroscena di Repubblica, Carmelo Lo Papa e Umberto Rosso raccontano di un Giorgio Napolitano molto irritato, il gelo di Napolitano che parla di rispetto per le istituzioni. Il capo dello Stato non ha parlato ufficialmente, ma scrive Repubblica, pagina 3, non gli è piaciuta affatto quell'irruzione al Palazzo di Giustizia a Milano. Napolitano, mentre in TV scorrevano le immagini della clamorosa protesta berlusconiana, si è fatto chiamare al telefono Gianni Letta. Parole dure dal capo dello Stato, che avrebbe fatto notare come la materia della giustizia sia un tema troppo delicato, come occorra senso di responsabilità, rispetto delle istituzioni per affrontarlo. Chissà, oggi c'è la delegazione del Popolo della Libertà che andrà al Quirinale. Chiederanno Alfano e chi andrà da Napolitano, secondo Repubblica, uno stop ai processi di 2 o 3 mesi per evitare condanne. E si vedrà come reagirà il capo dello Stato. D'altra parte, a Napoli la vicenda sembra accelerare invece per quel che riguarda l'accusa di aver comprato il senatore De Gregorio e altri senatori per far cadere il governo Prodi, quello eletto nel 2006. E allora scrivono i giornali che arriva dalla procura la richiesta di giudizio immediato per Berlusconi. Ecco un altro motivo che ha spinto appunto alla protesta. Tra l'altro, a proposito di questo e di giustizia in Campania, Guido Ruotolo invece racconta sulla Stampa come un'altra vicenda giudiziaria, quella che riguarda l'ex sottosegretario del Popolo della Libertà Nicola Cosentino, giovedì potrebbe avere una svolta, perché giovedì stesso Cosentino pare si consegnerà in carcere. Per Cosentino si aprono le porte del carcere, si consegnerà giovedì, trovate l'articolo di Guido Ruotolo a pagina 3 della Stampa. Ed eccolo qui, che situazione si annuncia? Siamo all'emergenza democratica, dice Nitto Palma, ex ministro alla giustizia del Popolo della Libertà. La Campania rischia di vincere il Guinness dei primati dei parlamentari ex finiti in carcere o ai domiciliari. Ieri è partita la richiesta della procura per processo immediato a Berlusconi, ma giovedì sera si consegnerà in carcere Nicola Cosentino, che ha visto respinte le sue due istanze di revoca delle due misure cautelari non concesse dalla Camera. Ora non è più parlamentare, le due istanze saranno operative e dunque Cosentino giovedì andrà in carcere. Questo almeno scrive La Stampa a pagina 3. In tutto questo, che succede sulla situazione di governo? È stallo, c'è un Renzi che scalpita e incalza il Partito Democratico sulla questione dei costi interni, Grillo invece incalza Bersani sulla questione dei costi e finanziamenti pubblici ai partiti, e c'è Adriano Celentano, lo straordinario Adriano Celentano che ritorna su Repubblica oggi con delle frasi quasi mistiche. E allora Renzi incalza il partito sui costi. Ieri il Corriere ha pubblicato di questo dossier che sarebbe stato commissionato da Renzi stesso sui costi interni del Partito Democratico, con dirigenti che guadagnano 3.500 euro, un esercito di ufficio stampa, Rosi Bindi che avrebbe non so quante persone al partito dedicate a lei, più una alla Camera, più una portavoce, insomma costi interni del Partito Democratico. Tra l'altro tutto questo è consultabile anche sul sito Sole24ore.com, che ha pubblicato e è venuto in possesso di questo documento sui costi interni del partito. Renzi incalza il partito sui costi, la mossa del sindaco pensando al voto, tanto che ora retroscena di Repubblica è esplicito. Titola pagina 7 Repubblica: Bersani a questo punto affronta il caso Renzi. Vuole sabotarmi, lo dica apertamente. Questa pare sia la sensazione, racconta Goffredo De Marchis, di Pierluigi Bersani. Cioè, rapporti tra i due sono morti e sepolti, ormai non si parlano più. Giorni di incomunicabilità, da giorni Matteo Renzi e Bersani evitano contatti, tanto che Bersani va in giro a dire, insomma, al di là delle critiche, dei dubbi, stai mettendo in piedi un sabotaggio, questo nei confronti di Renzi. Pare che Renzi abbia parlato solo con Vasco Errani, presidente della regione Emilia-Romagna, uomo molto vicino a Bersani, lo avrebbe avvicinato a dire, allora Matteo, a che gioco stai giocando? E la risposta di Renzi sarebbe stata questa: non voglio fottere Pierluigi, ma sono libero di dire ciò che penso. Certo, i rapporti sono davvero ai minimi, racconta Repubblica, è caos nel partito e la situazione è difficile. Intanto il partito ha scelto i tre pontieri, i tre deputati che dovranno trattare con i grillini. Sono Luigi Zanda, senatore del Partito Democratico, Davide Zoggia e Rosa Calipari. Io ho letto e ho detto, ma come? Laura Puppato, che ieri al Messaggero diceva io sono sicuramente uno, era data per certa una dei pontieri, che ha detto addirittura non sono io grillina, è Grillo che è puppatiano, era già in sollucchero all'idea di poter trattare con i grillini. Laura Puppato non è tra i tre scelti, sono questi tre. Luigi Zanda fa un'intervista alla Stampa: vogliamo risposte in incontri ufficiali, con tutto rispetto per i giornali e dichiarazioni che abbiamo letto, vorrei sentirmi dire direttamente dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle il pensiero di ciascuno, dobbiamo fare incontri ufficiali alla luce del sole, chiederemo ai gruppi parlamentari con chi prendere contatto. È il mio lavoro politico parlamentare, se sarà stato un piacere o una preoccupazione lo potrò dire solo dopo. Così dice e risponde a qualche domanda di Francesca Schianchi sulla Stampa Luigi Zanda, uno dei tre pontieri. Niente, invece l'ha puppato, non ce l'ha fatta. Adriano Celentano, eccolo qui, su Repubblica con le sue straordinarie lettere maiuscole, quelle per le quali devo gridare perché altrimenti non si capisce. Lui manda queste lettere ogni tanto, oggi la pubblica Repubblica, pagina 11. Celentano, la mossa storica di Bersani per conquistare i grillini. Cioè dovrebbe dire di sì a una parte del programma 5 Stelle, questa è la proposta di Celentano, che a un certo punto ha una frase addirittura mistica in questa paginata. Se è il caso, si rivolge a Bersani, dici anche che non ci penseresti due volte a cedere il posto a qualcun altro, ma sarebbe un errore, perché solo tu puoi fare la mossa giusta. la mossa che i tempi di questo grande momento ti chiedono, che sono poi gli stessi che hanno chiesto al Papa l'urgenza di una scossa per la Chiesa degli scandali mentre un meteorite si abbatteva sulla Russia. Io ho letto questa frase e a un certo punto, buttata lì nella lettera di Adriano Celentano, e mette insieme il Papa, il meteorite, la Russia, Bersani, Grillo, e ho detto ma questa è poesia allo stato puro, cioè è una cosa imperdibile. La trovate a pagina 11 di Repubblica, il senso di questa lettera tra il mistico e invece il concreto è di dire a Bersani: fai la mossa, anzi la mossa, come direbbe, come scriverebbe Celentano in maiuscolo, di dire a di offrire insomma un posto anche a Beppe Grillo, cioè tu fai il premier ma fai il programma del Movimento 5 Stelle, mettiti insieme e riuscite a fare questa cosa. Vabbè, mentre la politica si arrabatta coi cerotti per cercare di trovare una soluzione a questa impasse, l'Italia è allo sbando dal punto di vista di che cosa? Beh, intanto dei conti delle imprese. Ieri il presidente di Confindustria Squinzi ha ricordato ancora i 71 miliardi che le imprese fornitrici dello Stato devono ottenere e che non riescono a ottenere. E ha detto Squinzi, già con 48 miliardi se ne potrebbero fare 10 in investimenti, cioè anticipate almeno una parte, caro Stato, trova il modo per anticipare almeno una parte di questi 71 miliardi. Con questi 48 miliardi, tra l'altro, i dati vengono poi ricordati a pagina 2 del Sole 24 Ore, c'è una situazione, l'allarme dei produttori che sono stretti tra una stretta del credito sulle piccole imprese e l'impossibilità appunto di ricevere anche i pagamenti della pubblica amministrazione. Per questo gli impieghi, raccontano Marco Ferrando e Roberto Iotti, sono sempre più selettivi per la necessità di aumentare le coperture sulle sofferenze. Ecco, tutto questo mentre la politica che fa? Anche il Fatto Quotidiano se lo chiede. Che succede per esempio per quegli operai della Bridgestone? Noi abbiamo avuto il sindaco di Bari qualche giorno fa con la Bridgestone che ha annunciato la chiusura unilaterale, in maniera unilaterale, senza ascoltare nessuno, dal Giappone, del stabilimento di Bari. Ecco, che succede? Che risposte si danno alle imprese che devono ottenere i soldi, agli operai e alle persone, alle famiglie che rischiano di perdere da un giorno all'altro il posto di lavoro? E infatti il Fatto Quotidiano dedica 2 pagine a questo, pagina 4 e 5, anche a pagina 5, banche e imprese, la crisi che i politici hanno rimosso, e sono tutti impegnati a capire se tra i pontieri o non pontieri si riuscirà ad avere un qualche tipo di governo. Vabbè, non è ancora tempo per leggere molti articoli sul conclave che inizia per oggi, ma ci saranno. Leggo solo questa citazione che ho trovato sul Corriere della Sera, pagina 27. Io l'ho letta, quando l'ho letta ho girato pagina, il titolo lo trovate così: abbiamo perso un'ora di sonno, cresce il club degli stanchi cronici. Capite che per uno che si sveglia alle 5 del mattino, ecco, ho preso il Corriere della Sera e ho fatto fatica a non stracciarlo. "24 Mattino", la politica nel tunnel. Sono le 8:20, buongiorno, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, con noi, voglio subito salutare, c'è il neodeputato e avvocato di Silvio Berlusconi, deputato del Popolo della Libertà, Piero Longo, buongiorno e ben ritrovato, eccoci. Buongiorno a lei. Senta, come definirebbe quello che è successo ieri a Milano? Perché i giornali parlano di marcia, occupazione, addirittura Repubblica di assalto al tribunale, lei come lo definisce? La Repubblica è sempre immaginifica, nei nostri confronti poi immaginifica e naturalmente poco equilibrata. È semplicemente accaduto che i neoeletti del Popolo della Libertà, che si erano riuniti per un ordine del giorno abbastanza importante, hanno pensato di fare questa manifestazione fuori dell'aula del tribunale, fuori del tribunale, come chiunque altro. Nessun assalto, nessuna aggressione, non c'è stata solo una manifestazione di solidarietà con il presidente Berlusconi. Manifestazione, però è la prima volta che capita una cosa del genere nella storia della Repubblica, onorevole Longo, che ci siano 100 deputati o più o meno 100 che vadano a manifestare. No, tanto erano più di 100, ma che sia la prima volta darsi, ma questo cosa vuol dire? È anche la prima volta che si hanno elezioni con tre partiti che si sono divisi più o meno con le stesse percentuali i voti degli elettori. No, ma che tanti rappresentanti del corpo politico del Parlamento manifestino sì, solidarietà, però lo facciano in tribunale, cioè in un luogo dove c'è... No, non l'hanno fatto in tribunale, l'hanno fatto fuori dal tribunale. Fuori dal tribunale. Appena quindi non vedo, no, non vedo proprio la, non vedo né scandalo neanche una forma di così di esasperazione dei toni politici. Sono semplicemente hanno pensato che questa forma di solidarietà potesse essere gradita al presidente Berlusconi, che peraltro aveva suggerito di non andare in tribunale per rispetto delle istituzioni. Perché, allora, perché è stato fatto? Che ha deciso? Ricominciamo, ricominciamo da capo. Una cosa è andare dentro il tribunale e occupare, tra virgolette, un'aula di giustizia dove l'accesso è libero per chiunque. Sì. E un'altra cosa è fermarsi alle porte del tribunale. Ma perché io leggo sul giornale, in realtà sul Corriere della Sera, per esempio, si parla di metal detector ignorati, si arriva fino alle porte delle aule che erano rimaste chiuse, cioè qualcuno... Quali metal detector ignorati? Alcuni sono poi entrati quando l'udienza era sospesa perché i giudici erano in camera di consiglio aspettando l'esito dell'accertamento fiscale che era stato ordinato, si sono recati anche dentro il tribunale, ma sono entrati in tribunale credo una decina di persone, di parlamentari, non di più. Cioè, ma lei non vede nulla di neanche di istituzionalmente scandaloso? Allora io lei ci vede qualcosa di istituzionalmente scandaloso? Molti giornali insomma dicono che il gesto... è un colloquio tra me e lei, lo ascolta anche qualcuno, qualche ascoltatore. Allora sì, certamente, ma lei ci vede qualcosa, mi dica, io ci vedo qualcosa di istituzionalmente scorretto, scarso. Guardi, il mio ruolo è fare le domande. Sicuramente è qualcosa di nuovo e di... Io le do le risposte. Sì. Le risposte che le do non le piacciono. Questo è un tipico di certo giornalismo. No, mi perché non mi piacciono? Scusi, no, io faccio... continua a rifarmi la stessa domanda. Sì. Allora io la risposta gliel'ho data. Non le piace, pazienza. Pazienza. Allora passiamo alle altre domande. Lei ha mai visto il film Il Caimano che qualcuno ha rievocato oggi? Cioè, non sembra la scena finale del film? No, non l'ho visto. Sa che in questa scena finale viene... No, non lo so, siccome non l'ho visto... Non... Vabbè, gliela racconto io. Viene condannato, il potente di turno, interpretato da Nanni Moretti, all'uscita del tribunale vengono assediati i magistrati, i giudici che hanno condannato. Cioè il popolo fa una manifestazione e assedia, attacca anche fisicamente i giudici che hanno condannato. Che brutta cosa. Che brutta cosa. Ma sai, è un film, poi un film di Nanni Moretti, che è un uomo di grande vaglia, ma è un film... Un film. Senta, come sta il presidente Berlusconi? Cioè quando si potrà... Il presidente Berlusconi non sta bene. Non sta bene. Ma non tanto male quanto i suoi avversari pretenderebbero, spiccherebbero che stesse. Quindi si riprenderà, e non è un momento che può capitare di attenzione soprattutto al sistema cardiocircolatorio. Ma io lo dico a lei e per gli ascoltatori, non temano che stia male tanto da sottrarsi alla vita politica. Da questo punto di vista, lei è d'accordo quando il segretario del Popolo della Libertà Alfano ieri ha detto vogliono colpire, eliminare in via giudiziaria il politico Silvio Berlusconi? Ma certamente sono d'accordo. Intanto sono d'accordo con quello che dice normalmente Alfano, il mio segretario. Ma perché? Cioè, perché mi scusi, perché dire è un processo? Cioè, No, non esiste soltanto il processo, è il fatto che il procura di Napoli con attenzione chiede il rito immediato, scegliendosi probabilmente il giudice a cui andrà rivolta la, la domanda di diritto, diritto immediato. Addirittura scegliendoselo. No, perché la regola è proprio questa, sa. Ci sono i turni dei giudici dell'udienza preliminare. Questi turni dovrebbero essere riservati, non conosciuti, in modo che i pubblici ministeri... E certo. Non, ecco, invece, purtroppo, molte volte questi turni sono conosciuti. Allora, chiederlo sabato, chiederlo lunedì o mercoledì, significa spostare al, la richiesta al giudice preferito. Cioè, questa però è una cosa, beh, questa è una cosa abbastanza maliziosa e grave, cioè che lei dice, perché il giudice è terzo. Sì, ma io dico sempre cose gravi. Cioè, secondo lei la procura di Napoli... No, un momento, il giudice è terzo. Sì. Il pubblico ministero non è terzo per definizione. Chiaro. Però secondo lei c'è una, insomma, come dire, i pubblici ministeri di Napoli conoscono i turni dei giudici. Questo accade in tutti i tribunali. Non dovrebbe accadere, ma accade in tutti i tribunali. Senta, politicamente si è parlata della possibilità dell'Aventino, cioè si è citato questo episodio storico in cui nel 24 per gli, diciamo gli antifascisti si ritirarono sull'Aventino e non partecipavano alla vita politica. Esatto. Potrebbe farlo anche il Popolo della Libertà, cioè addirittura venerdì c'è l'insediamento delle Camere e si minaccia non partecipiamo ai lavori delle Camere, per esempio. Intanto non è una minaccia, perché l'esercizio di un diritto è anche quello di non partecipare. Quindi il termine come tale, secondo me, è improprio. Io personalmente non sono d'accordo e non credo che si verificherà questa eventualità. Non si verificherà. No. Senta, Avvocato Longo, come insomma, no, è d'accordo almeno a dire che non è una bella scena il fatto che giustizia e politica siano così intrecciati ormai da 20 anni per le vicende che riguardano l'ex presidente del Consiglio? Cioè, un cittadino normale assiste a una scena come ieri al tribunale? Cosa può pensare? Sì, d'accordo. Posso ricordarle però che tutti questi anni, con questi attacchi della magistratura, di parte della magistratura, di parte minoritaria della magistratura, il presidente Berlusconi non è stato mai condannato, in via definitiva, Sì. Purtroppo è così. E questo però poi ci riporta, ne abbiamo già parlato, io poi le devo fare la domanda, ci sono molte leggi considerate ad persona, ma lei mi dice che non è vero. No, io dico le leggi ad persona sono un'invenzione giornalistica, sì. Perché sono leggi generali che riguardavano anche delle singole persone. Queste leggi, peraltro, sono state cassate in parte dalla Corte Costituzionale. Quindi oggi parliamo di oggi o parliamo di quello che è successo nel passato? Parliamo di oggi. Parliamo di oggi. Oggi non ci sono leggi ad persona. L'ultima domanda è questa. Molti cittadini hanno il pensiero, la sensazione che Berlusconi si voglia sottrarre ai processi invece che farsi giudicare. Lei, da avvocato di Berlusconi, come replica? Io replico che non ci si può sottrarre ai processi, ma il processo è tale quando è un processo giusto. Un grande giurista, ancora vivente, e a noi peraltro non particolarmente vicino, ha detto: guardate che il processo è come la caccia, vale più come si fa che quello che si prende. Noi come avvocati abbiamo il dovere e il diritto di far sì che il processo nel suo svolgersi avvenga attraverso le regole, con rispetto delle regole. Questo è per Berlusconi e per chiunque altro. L'ultima volta le avevo chiesto come trovava il processo Ruby, lei ha detto bello, perché dal punto di vista si imparano tante cose. È ancora di questo avviso? Sì, sempre bello. Però per vedere se da bello diventa magnifico, voglio ascoltare la requisitoria dei pubblici ministeri in punto di diritto, in punto di fatto. Certo. E poi il mio giudizio sarà ancora più entusiasta. Vada a vedere il Caimano, poi lo trovo ancora. No, non vado a vedere il Caimano, No. Ma secondo me lei l'ha visto, o comunque la scena finale la conosce? No, guardi, io non ho ragioni per mentire a lei, come non ho ragioni per mentire a nessuno. Non l'ho visto. Non lo compro per non dare del denaro a delle persone che non ritengo, in questo caso, debba avere i miei soldi. Guardi, per aiutare Moretti, sì. Andrò a comprarmi alcuni altri suoi film. Tipo ne citi uno, Ecce Bombo, La messa è finita, magari. No, quello questo... che mi manca è quello sul Papa, per esempio. Sul Papa, quello, abemus il Papa. Papa, quello non ho e andrò a comprarlo volentieri. Quindi da soldi a Moretti, ma non per il Caimano, solo per altri film. Il Caimano fallisca, insomma. No, anzi, che faccia grandi successi, sì, non avrà i miei denari. Va bene, la ringrazio, bene, buona grazie, giornata, grazie all'avvocato Piero Longo, onorevole del Popolo della Libertà. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e poi avremo il direttore del Fatto, Antonio Padellaro, poi avremo un esponente del Partito Democratico, Dario Nardella, per parlare di questa situazione di impasse politica. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:38 minuti. Allora, l'attualità politica. Oggi la notizia che viene data da Repubblica in retroscena è questo. C'è Bersani che pare dica di Renzi: ma insomma, caro Renzi, che fai? Mi vuoi sabotare? E pare che Renzi gli abbia risposto: non voglio. Abbia risposto a Vasco Errani, più che altro il, diciamo, l'emissario, il contatto tra Bersani e Renzi: non voglio fottere Pierluigi, ma insomma dico quello che penso. Che succede nell'ambito della formazione del possibile nuovo governo? Voglio salutare il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno. Poco fa avevamo il senatore Longo, glielo dico, l'avvocato di Berlusconi, che ha detto è stata una manifestazione normale, insomma, di solidarietà a Berlusconi. Fuori, poi sorride, magari ci dirà anche la sua su questo. Saluto l'onorevole Dario Nardella, buongiorno, del Partito Democratico. Benvenuto Nardella. Buongiorno a lei. Buongiorno da vice sindaco di Firenze a, e quindi lo dico apposta, a deputato. Si può dire renziano? L'avevo chiesto a Matteo Richetti e Richetti ha detto sì, non è una malattia, e quindi si può dire renziano, che non è una corrente, però insomma Nardella. Sì, serve a rendere bene l'idea, va bene. Allora, che succede? C'è Renzi vuole fottere Pierluigi? Ma l'ha detto in tutte le occasioni, pubbliche e private, che Bersani fa bene e ha diritto di provare a formare il governo e a farlo con la formazione politica che può avere punti di contatto maggiori come il Movimento 5 Stelle, quindi non c'è assolutamente questo tipo di retroscena, sì, nella maniera più assoluta. Peraltro, fin dalle primarie, anche dal dopo primarie, dalla campagna elettorale, se c'è una cosa che tutti hanno riconosciuto a Renzi, anche i suoi avversari, è proprio la lealtà e il modo con cui si è messo a disposizione della campagna elettorale di Bersani. Ciò non toglie che non si possa dire le proprie idee, peraltro, guardi, non ora inventate ora, ma idee che da più di un anno e mezzo ha sempre sostenuto sul finanziamento pubblico dei partiti e sulla trasparenza. Questa è un'idea, per esempio, il finanziamento pubblico dei partiti. Mi dica la sua idea, perché Beppe Grillo ieri ha detto: caro Bersani, firma qui, cioè firma che togli il finanziamento pubblico ai partiti, tu cur, non lo rivediamo, lo cambiamo, lo miglioriamo, togliamolo del tutto. Lei, che è del Partito Democratico, di che idea è? Ha ragione Grillo a fare questo appello a Bersani? Io lo firmerei l'appello. Il punto è che sembra strumentale da parte di Grillo, nel senso che più che cercare una soluzione, che quella che un po' ci chiede la maggior parte degli italiani, insomma un governo di alto profilo che comincia a risolvere i problemi reali. Oggi il Sole 24 Ore apre con un problema drammatico: 48 miliardi di euro che lo Stato deve pagare alle imprese, per citarne uno, la disoccupazione. Allora, di fronte a questa emergenza e al rischio di tornare alle elezioni con questa legge elettorale drammatica, c'è un appello forte che viene anche da fuori alla politica, è quello di provare a fare un passo, cioè non buttare via questa occasione con un Parlamento anche così rinnovato, con tanti giovani, tante donne. Allora, di fronte a questo sembra strumentale il giochino di Grillo, direi da Prima Repubblica. Cioè, come però, dire, stanarlo su una cosa per la quale mette ma era una cosa importante, ma non la prima cosa per mettere in difficoltà Bersani. Dice. Probabilmente ne inventerà qualcun'altra, però resta il fatto che il tema del finanziamento pubblico ai partiti è un tema serio. Noi, con Matteo Renzi, io personalmente, lo abbiamo detto appunto da prima, non è che ce lo siamo inventati ora per aprire una polemica interna, nella maniera più assoluta. Però io mi permetto di fare questa breve riflessione. Cosa ha prodotto il finanziamento pubblico ai partiti in questi anni? Ha allargato la partecipazione nei partiti tradizionali? No. Ha ridotto la corruzione della classe politica? Guardiamo Tangentopoli, guardiamo quello che è successo nel Consiglio regionale della Lombardia con i vari Fiorito, eccetera. Ha limitato il finanziamento da parte dei privati? verso la politica? No. Ha portato delle risorse alle organizzazioni di base, ai circoli? Sì. Allora, e poi c'è questo piccolo particolare che i cittadini lo avevano pure bocciato. Esatto. C'è questo piccolissimo... Allora, una cosa è garantire il pluralismo e la democrazia, perché la Costituzione usa il termine partiti, una parola che deve riconquistare la sua dignità, secondo me. Bisogna difenderla, i partiti vanno cambiati profondamente, ma non vanno cancellati. Lo hanno scritto i nostri costituenti e quindi va garantita la loro vita e anche la loro base democratica. Altro però è avallare un modello che non ha funzionato, perché dobbiamo dirlo, e che ha alla fine prodotto spesso delle macchine ministeriali, il cui beneficio però non è stato poi verificato nella società. No, ma chiaro, la posizione vostra è molto chiara. Allora, direttore Padellaro, qui la situazione c'è il Partito Democratico che si arrabatta, cerca di capire se si trova una soluzione, ci sono i tre pontieri scelti, vale a dire gli onorevoli Zanda, Calipari e Zoggia, per parlare con i grillini, c'è Beppe Grillo e c'è Berlusconi e la manifestazione di ieri. Se ne esce come? Difficilmente o no, Padellaro? No, non se ne esce. Non se ne esce perché sono tutti segnali di una campagna elettorale che non è mai terminata e che continua. Io, come direttore di un giornale che ha sempre fatto molto per cercare di convincere i partiti a migliorarsi sulla vicenda del finanziamento pubblico, di questi rimborsi incredibili, abbiamo scritto tonnellate di articoli, però sono sbalordito dal fatto che in questo momento si sta parlando di finanziamento dei partiti, che è una questione di cui bisognava parlare prima, no? Mentre in questo momento bisognerebbe parlare, oltre che della formazione impossibile, mi sembra, di un governo, comunque della eccezionalità della crisi, perché prima è stato citato questo dato incredibile di 48 miliardi che lo Stato deve alle imprese. Ci sono, per la verità, imprese... sono anche di più, sono 70, ma 48 è quelli che il presidente di Confindustria ha detto sbloccate subito, insomma, almeno. Certo. Ovviamente 48 miliardi significa che appunto le imprese italiane finiscono per stramazzare, perché non hanno, non avendo credito da parte delle banche, non avendo i soldi da parte di chi li dovrebbe dare. E oggi noi pubblichiamo un reportage da Bari, dove c'è questa industria, la Bridgestone, che ha chiuso 950 operai a casa. Io credo che un dato di questo genere dovrebbe appunto essere al centro dell'azione non solo dei partiti che devono fare il governo, ma delle istituzioni. E invece continuiamo a parlare di cosa? Continuiamo a parlare di temi che sono, di cui si sono impadroniti Grillo e Grillini, pensando che la prossima campagna elettorale a giugno e a ottobre parlerà di la cose. Possibilità al Partito Democratico o a chi vogliamo di recuperare su quel discredito che la politica ha accumulato. Ma, direttore Padellaro, non so se è d'accordo, è come se la politica fosse sempre un giro indietro, c'è un tempo in ritardo, no? Effettivamente si parla di cose di cui i cittadini li hanno già bocciate nel 93, se ne è parlato per anni, e invece adesso di parlare, come dice lei, delle imprese che non hanno soldi, della Bridgestone che chiude, degli operai che non hanno lavoro, che si fa la politica, è un tempo in ritardo e parla ancora delle cose di due anni fa. Ma assolutamente sì, infatti io sono rimasto sorpreso dal fatto che invece di dire cosa facciamo, non c'è la possibilità, adesso è chiaro ci sono i tempi istituzionali, aspetteremo quello che farà Napolitano e tutti, non so se avete notato che adesso Napolitano, appunto lui pure ironicamente si è definito il faro nella nebbia, tutti da Napolitano, ci salvi Napolitano, ma Napolitano cosa può fare? Cosa può fare Napolitano se non esiste uno straccio di accordo possibile? Comunque, tornando alla sua domanda, io credo che se continuiamo a perdere tempo e non prendiamo, o meglio, le forze politiche non prendono una decisione coraggiosa, purtroppo con questo Parlamento non si va da nessuna parte, meglio andare a votare con una nuova legge elettorale, perché se si vota con la stessa legge elettorale finiamo altro che Grecia, non se ne esce. Sì, bisogna capire però quale chi la fa, ma ripartiamo da qui dopo le informazioni sul traffico. Però, cari italiani, questa è la sensazione, cioè mentre i giornali raccontano una cosa, la politica sembra raccontare le cose di due giorni prima, ecco, dico due giorni per non dire due mesi o un anno. Allora, siamo con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, e l'onorevole Dario Nardella del Partito Democratico, al quale chiedo che praticamente, Nardella, mi aiuti a capire, secondo lei, quale deve essere la mossa di Bersani? Poniamo il caso che verrà dato l'incarico a Bersani, consultazioni, portiamoci un po' avanti, diciamo, questo potrebbe essere lo scenario. Che si fa? Si devono corteggiare i grillini? Che ne pensa, per esempio, di questi tre pontieri scelti per trattare con loro? Io mi permetto di dire che le cose vanno fatte alla luce del sole. Penso che anche la vittoria del Movimento 5 Stelle non vada così bollata come un fatto di antipolitica e basta, sarebbe da presuntuosi. Sta cambiando anche un modo di fare politica, e questo anche per i palazzi cosiddetti della politica. Quindi lavorare alla luce del sole attraverso proposte, come ha fatto ad esempio sugli 8 punti, se fossero ancora più incisive sarebbe anche meglio, chiedendo a ciascuno di dire un sì e un no, e non di trovare, diciamo, giustificazioni o rilanciare alzando l'asticella. E poi aggiungo, parlando anche delle cose a cui faceva riferimento Padellaro, io non a caso l'ho detto come primo elemento quando ho citato il debito micidiale che lo Stato ha verso le imprese. Lei ricordava, Milan, che sono appunto dimissionario, anzi ormai sono ex vice sindaco, ma sono caldissime ancora le esperienze che ho su crisi aziendali. Abbiamo un'azienda straordinaria a Firenze come la Richard Ginori, un marchio incredibile, un'azienda sana che però sta chiudendo. Abbiamo 2 aziende importanti del gruppo Finmeccanica con 1200 dipendenti, sono un'eccellenza nel campo aerospaziale. Allora, da amministratore, io quotidianamente mi sono trovato a ragionare, a confrontarmi con questi problemi. Abbiamo il finanziamenti governativi bloccati per far partire i nostri incubatori di imprese, per dare ai giovani possibilità di fare nuove imprese. Per questo c'è bisogno di un governo. Ma di quale? Quindi vuol dire, se c'è bisogno di un governo, che vuol dire? Cioè, mettetevi... No, dico che il tema su cui mi piacerebbe che i Grillo, ma anche i parlamentari, perché non dimentichiamo, noi ricordiamo l'articolo 67 della Costituzione solo per l'infelice attuazione che se n'è fatta di consentire ai parlamentari di cambiare gruppo ogni settimana. Ma l'articolo 67 della Costituzione dice una cosa sacrosanta, che è al centro della democrazia, che un parlamentare rappresenta prima di tutto la Repubblica, l'Italia, la nazione. Allora c'è un interesse comune su cui possiamo provare a fare un passo. Grillo e Bersani, c'è, come dire, ho capito, ma gli appelli all'interesse comune, cioè come ve lo devono dire, in che lingua, che la fiducia, che è il primo atto per far partire la macchina, non la danno, poi magari cambia tutto da qui, ma non la danno, cioè hanno detto chiaramente non la diamo. Io credo nell'ottimismo della volontà, ancora qualche spazio, qualche giorno prima dell'insediamento e prima che il presidente Napolitano affidi l'incarico, sono convinto che parlando alla luce del sole, facendo un'offensiva rispettosa ma molto ferma su questi temi, ci possa essere margine di dialogo. Un'ultima cosa, ci sono per esempio tanti intellettuali, tanta gente comune che sta cominciando a dire questo, non è solo una preoccupazione di Bersani o di qualcun altro, c'è un paese che sta cominciando a venire fuori, non trascuriamo questo aspetto. No, vediamo se, non so, è la lettura giornalistica, Padellaro, che ne pensa? C'è davvero questo ottimismo a dire, non so, per carità non si fa scouting, non si compra nessuno, ma dice c'è la possibilità di mettere un piatto comune e andare a accendere questa macchina. Ma io credo che Bersani, Renzi siano persone troppo esperte della politica per non capire che da Renta, da Grillo e da Casaleggio non verrà mai, non dico un sì, ma neanche uno spiraglio di sì alla fiducia. L'hanno detto in tutte le lingue e credo che non cambieranno opinione. Allora, qual è l'idea? L'idea è quella di convincere, lo dico tra virgolette, i vari senatori del 5 Stelle a scendere, come dice, a più miti consigli, cioè il famoso scouting, non a caso parola che è stata tirata fuori nei primissimi giorni dopo le elezioni da Bersani, significa prendere uno per uno i senatori e cercare non di comprarli, per carità, perché quello lo fa Berlusconi, è un altro sistema, ma di convincerli che per il bene del paese tutte le cose che abbiamo detto devono dare un appoggio a un quindi governo. La fiducia, che vuol dire che la vengono fiducia. Espulsi immediatamente dal Movimento 5 Stelle. Esatto, però noi ci sono illustri precedenti della storia italiana, basta andarsi a rileggere che cosa successe nel dopoguerra con il movimento dell'uomo qualunque, che andò in Parlamento con un certo numero di deputati e senatori e in pochi mesi fu divorato dalla Democrazia Cristiana. Ma lasciamo perdere i precedenti. Allora, io trovo che questa scommessa sul senatore Grillino sia una cosa sbagliata. È sbagliata perché intanto si dà la sensazione all'elettorato di un giocare non alla luce del sole, parliamoci chiaro, non si tratta di giocare alla luce del sole, anzi di giocare con colpi sotto la cintura. Secondo, se il Partito Democratico non capisce che gli 8 punti, mi dispiace contraddire l'onorevole Nardella, ma fanno ridere Grillo, perché non c'è praticamente nulla delle cose che lui chiede, e tra l'altro ieri Grillo ha detto firma qui, no? Ha detto chiaro, a Bersani rinuncia a 48 milioni di euro di finanziamento pubblico in 5 anni. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle ha diritto a 42 milioni e loro rinunciano, è chiaro. Ecco, loro hanno rinunciato, c'è stata una risposta. Allora, io ho l'impressione che questo è un modo per avvitarsi, per creare, mi scusi l'espressione poco radiofonica, casino, e per non arrivare alla soluzione dei problemi. Però questo lo vedremo in settimana, con questi tempi effettivamente anche un po' barocchi, io lo ripeto tutti i giorni, ma sono i tempi istituzionali, le consultazioni. Vi ringrazio Antonio Padellaro e Dario Nardella, ci ritroviamo domattina alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.